Radio Popolare presenta La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Buongiorno, il programma prevede di parlare di cani da guardia del popolo, di ninfe volubili e ninfe tenaci, alternative a somma zero, nonché del noto rapporto fra le insalate e il teorema di Gödel.